Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno da Elisabetta Fiorito, qui dal Transatlantico di Montecitorio, dove oggi è con noi Nico Stumpo del Partito Democratico, al quale chiediamo subito, c'è stata un po' di polemica per la nomina dei sottosegretari e dei vice ministri, qualcuno dice sono troppi, lei che cosa ne pensa? Credo che si sia chiuso su un numero abbastanza ristretto e limitato, 30 tra sottosegretari e vice ministri, che mi auguro siano sufficienti per seguire tutti i lavori in commissione e soprattutto mi auguro che dai primi giorni della prossima settimana, fatto il governo, le commissioni possano iniziare a lavorare per dare risposta ai problemi dei cittadini. Penserei più a questo piuttosto che a delle polemiche un po' stucchevoli su dei numeri di sottosegretari e viceministri. Senta, il PD si prepara all'Assemblea Nazionale che di fatto eleggerà un nuovo segretario, molte sono le anime, è un partito che sfodera molti leader al contrario degli altri magari che sono fissi su una personalità o su una persona sola. E che cosa succederà? Il sindaco di Firenze si candida alla segreteria, Fabrizio Barca si candida alla segreteria, qui i candidati ce ne sono moltissimi. Io mi auguro e credo che il Partito Democratico sarà nelle condizioni di eleggere un segretario che ha tutte le funzioni e le caratteristiche per seguire questa fase, per portare il Partito Democratico a un futuro congresso e soprattutto sostenere lealmente e con forza l'operato del governo e riconciliare il tanto popolo della sinistra e del centro-sinistra che oggi ha bisogno di risentirsi dentro e partecipe alla scommessa del Partito Democratico. Quindi le fronde, insomma, cercherete un pochino di ricompattarvi? Cercheremo di ricompattarci. In politica, come nella vita, dopo aver toccato il fondo si può anche scavare. Io credo che nell'intelligenza di un gruppo dirigente ora ci sia da toccare, dopo aver toccato il fondo nel rapporto con i cittadini, darsi la spinta per ritornare su. Quindi è necessario che la prossima sia un'assemblea pulita politicamente, con una decisione la più ampia possibile in rapporto con la società italiana. Quanto durerà questo governo? Molti non ci scommettono molto perché dicono ci sono troppe anime diverse, il PD è completamente all'antitesi del PDL. Ma il governo non ha un timer, non è in scadenza come uno yogurt. Io spero, mi auguro che vivrà tutto il tempo necessario per risolvere, provare a dare risposta ai problemi dei cittadini e avviare e realizzare le riforme istituzionali e costituzionali che servono al nostro Paese. Nella relazione, per ottenere la fiducia, il Premier Letta ha detto fra 18 mesi faremo la verifica, allora io credo alle sue parole, dico fra 18 mesi faremo la verifica, non che scadrà il governo. Sì, ma molti dicono attenzione, questo tempo che Letta ha indicato ha a che fare con le riforme istituzionali. Adesso già Cicchitto ha detto la convenzione, la presidenza della convenzione deve andare al centrodestra. Insomma, si parla sempre di poltrone e non di riforme. Ma la cosa più difficile è avviare un percorso. Naturalmente è stato complicatissimo fare il governo, l'abbiamo fatto. Non sono partite ancora le vie per la riforma, a partire dalla convenzione che noi come PD rivendichiamo per averne avuto l'idea, per farla nascere. Sono convinto che quando verrà istituita la commissione, inizierà i lavori, anche questo sterile dibattito su chi la deve guidare verrà messo da parte e partirà la discussione su quali riforme fare ed è su questo che bisognerà concentrarsi. Il Paese però attraversa una crisi profondissima, riuscirà questo governo a ristimolare l'economia, magari intanto cambiando la legge Fornero? Questo è uno dei temi, oggettivamente. Il compito di questo governo non è quello di governare per lasciar passare il tempo, ma è quello di impiegare il tempo per governare il Paese. A noi serve in questo momento un'intelligenza politica superiore a quella di una fase normale, la capacità di trovare le risorse per rilanciare l'economia a partire dal lavoro. Riformare la legge Fornero non significa, come ho sentito dire, soltanto un fatto di maggiore flessibilità sul lavoro, significa anche la possibilità di trovare modalità per dare maggiore lavoro, significa stabilizzare forse di più il lavoro in una fase in cui con molta difficoltà chi è al lavoro ha poi una stabilità sociale, se così si può dire, personale. Dobbiamo riprendere in qualche modo a dare a chi lavora una capacità di progettare il futuro, perché soltanto in una società in cui c'è una forza stabile si può anche migliorare. Dovremo fare nei prossimi mesi. Lei che è un uomo di partito, nasce come un uomo del PD, un uomo che conta i numeri, come giudica il Movimento 5 Stelle e come giudica anche questi toni preoccupanti di Becchi, che poi sono stati anche però respinti dai parlamentari 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle è un movimento politico che è un po' il risultato, diciamo, di un'anomalia italiana, cioè un po' come la febbre misurata dal termometro, cioè una società che vive una fase di grande difficoltà e il Movimento 5 Stelle sta rappresentando la febbre di quel problema, non è la soluzione di quel problema. È chiaro che in queste settimane sta iniziando a venire fuori quello che è il limite anche di un movimento che ha avuto l'idea di accaparrarsi, diciamo, i voti da chi si sentiva profondamente deluso dalla politica, incapace di dare risposte. Penso che in queste settimane il Movimento 5 Stelle non è riuscito in nessun modo a dare risposte a quelle domande che invece c'erano nella società, e questo non è un fatto positivo per chi fa politica, come ormai fa politica il Movimento 5 Stelle. Quella febbre si abbassa se si riduce di molto quel 35% di giovani che non lavorano, se si riduce di molto quella percentuale di donne che non lavorano, se si riduce quel gap che c'è tra nord e sud, che ormai si allarga non perché il nord va bene e il sud va male, si allarga perché vanno male tutte e due, c'è chi va ancora più male di chi va male. Lei non crede quindi alla democrazia diretta, lei crede alla democrazia rappresentativa, non crede a queste votazioni online? L'idea della democrazia rappresentativa ancora è difficile da sostituire con la democrazia diretta. Questo lo dico non perché io non sia uno appassionato al fatto che uno conti uno, ma uno conta uno se poi sta dentro un quadro complessivo, perché se ognuno resta a se stesso e singolo, diverso, quindi è distante dal prossimo uno che ha a fianco, non diventa due. E al tempo stesso sono convinto che bisogna trovare modalità di partecipazione innovative, diverse da come hanno fatto, ma questo non sostituisce un principio generale di democrazia in cui la modalità rappresentativa ha di per sé una funzione democratica. Aver avuto 50 voti online non significa rappresentare quei 50 cittadini. Qua rappresentiamo il popolo italiano. Questo è il principio al quale poi alla fine tutti devono sottostare per creare davvero un sistema democratico. E sul linguaggio di Beppe Grillo un po' ha moderato i toni, no? Ho capito che qualche giorno dopo le ultime uscite ha moderato i toni. Spero che in queste settimane scongelino, diciamo, quel 25%, quei centinaia di parlamentari e li portino utili per i cittadini per fare qualcosa di positivo. Piangerà quando Bersani annuncerà di nuovo le sue dimissioni all'Assemblea sabato prossimo? No, non piango perché, diciamo, credo di aver pianto in vita mia soltanto per gioia la nascita dei figli o per questioni personali. Si chiuda una fase che è durata 4 anni, ma che non si chiuda un percorso, perché io credo che Bersani, con il suo modo di essere, con le sue idee, continuerà a far politica e quindi si trasformerà la partecipazione attiva alla politica, e questo non cambierà assolutamente nulla. Ringraziamo l'onorevole Stumpo che abbiamo intervistato qui per Montecitorio e dintorni. Io vi do appuntamento come al solito a sabato prossimo.